e serve per il trattamento di malattie molto gravi in misura analoga a quello che si fa con il midollo osseo, quindi è una procedura molto simile al trapianto di midollo osseo. Professor Rebulla, ma tutte le donne possono donare il loro cordone al momento del parto, e nel caso magari in cui il centro in cui partoriscono non fosse attrezzato, possono realizzare comunque la donazione? La donazione è a favore della banca pubblica e quindi aperta all'utilizzo da parte della collettività. La donazione cosiddetta solidaristica può essere fatta solamente in una struttura convenzionata con la banca. Questo è necessario per criteri di sicurezza, sia per la mamma che per il bambino, e anche per garantire la qualità della donazione che sarà conservata in banca per molti anni. Però i criteri di selezione sono molto simili a quelli della tradizionale donazione di sangue, quindi una mamma in buone condizioni di salute, che non abbia avuto nella sua famiglia malattie o abbia rischio di trasmettere malattie genetiche, può fare la donazione. Professor Rebulla, alcuni paesi consentono la conservazione del sangue presso banche private e quindi autorizzano presso di esse anche la conservazione del sangue placentare per uso proprio. Nel nostro paese il bancaggio privato non è permesso, ma tra l'altro la comunità scientifica ha tante buone ragioni per sconsigliare questa procedura. Sì, diversi gruppi scientifici, organizzazioni professionali, comitati di etica hanno espresso dei pareri raccomandando ai governi di non sostenere programmi di conservazione autologa. La principale ragione è che non esistono oggi protocolli clinici convalidati per sostenere questo tipo di pratica, anche se è comprensibile che molte persone pensino a queste cose come una futura assicurazione verso qualsiasi malattia, ma questo viene considerato oggi irrealistico e sicuramente non utile. In particolare, se tutte le persone si orientassero a conservare per sé, il patrimonio necessario a fare i protocolli oggi che sono già disponibili non sarebbe più disponibile. Quindi se una mamma si incoraggia a conservare per sé, nella comprensibile volontà di proteggere, diciamo così, il suo bambino, qualora il suo bambino fra 5 anni avesse una malattia curabile con una donazione solidaristica di un'altra mamma, come farebbe a chiedere a quest'altra mamma questo dono? Questa è una argomentazione importante. La seconda argomentazione è che se questi protocolli verranno messi a punto per una cellula staminale emopoietica come quella del sangue placentare, è molto verosimile che possano essere adattabili anche alle cellule staminali presenti nel midollo osseo, che è quella parte del nostro organismo che cresce con noi e dentro la quale le cellule staminali continuano ad essere presenti per tutta la vita. Professore, però anche nell'ambito della donazione pubblica è già contemplata e correntemente praticata la raccolta del sangue placentare, cosiddetto dedicato. Cosa significa? Certo, questa è un'altra importante caratteristica del servizio pubblico, che offre alle famiglie che hanno la sfortuna di avere un bambino malato, ma a cui nasce fortunatamente un fratellino che si spera sia sano e magari anche compatibile, siccome la compatibilità nella famiglia è molto più probabile che non con un non familiare, il servizio pubblico offre la conservazione della donazione dedicata a quel bambino, oppure anche per le famiglie nelle quali i genitori sono portatori di una particolare patologia genetica, quindi hanno il rischio di trasmetterlo alla prole, si conservano le donazioni dedicandole a quella specifica famiglia, senza costi ovviamente per la famiglia. Professor Rebulla, la ringrazio, le auguro una buona giornata e intanto, se volete saperne di più, vi segnalo il sito della Adisco, www.adisco.it. Pronto soccorso. Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido. Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario? Professor Mencacci, devo dire che ho scelto questo breve estratto da Io e Marley pensando alla nostra comune passione nei confronti dei cani, ma naturalmente parleremo anche di gatti, sicuramente. Faremo una per condicio. Certo, però professore, l'abbiamo già anticipato e chi ha un cane in casa, un gatto, lo sa bene, che la loro compagnia ci rende più felici, ci aiuta in qualche modo a crescere, e lo dico per tutte le età, per un bambino ma anche per una persona che è un po' avanti negli anni. Certo. Ha

tagliamo la scatola. Guardi, d'estate. Walter, sa che cosa facciamo? Facciamo un giro di tavolo e chiedo a Roberto Allegri, a Mauro Cervi e a Paolo Zucca un consiglio, una raccomandazione, un direi di più, un dovere che voi suggerite, e anzi ai proprietari di cani, per aiutare un po' questa convivenza tra chi i cani li ama e li vuole però tenere, portare con sé, e chi invece i cani li ama ma li vuole tenere lontani. Allora, dottor Cervia. Senti, io investo un'ora del mio tempo tutte le volte che ho un cliente nuovo con un cane, che ha appena preso un cane, appena comprato un cane. Gli spiego che razza è, che tipo di cane è, come si comporterà e come si deve comportare lui. Perché? Perché per me è importantissimo che ci sia questo rispetto per le altre persone. Io vado in spiaggia col mio cane e lo lascio libero. Il mio cane è bravissimo, piccolo, non disturba nessuno. Appena lo richiamo, arriva subito verso di me. Questo devono fare anche gli altri. Cioè, e si raccoglie la cacca. Eh sì, assolutamente. Questo soprattutto in spiaggia, perché ecco, per stare a piedi nudi, sì, un escremento di un cane non è che sia proprio ovunque, un vaso. Anche perché questo poi, io lo dico sempre anche ai compagni, è un di dovere parco civile che abbiamo, quello, certo, di raccogliere gli escrementi dei cani, assolutamente. Quindi consapevoli dei propri animali, persone di buon senso. Impiego questo tempo proprio per spiegargli queste cose. È ovvio che uno che ha un cane maschio di grossa taglia, magari di indole aggressiva, perché comunque ci sono delle razze che sono aggressive magari anche nei confronti degli altri animali, il non professor deve lasciarlo Zucca libero. Dirà c'è il cane. È vero, professor Zucca? Sì, ma insomma concordo assolutamente con quello che dice il collega. Ecco, se posso aggiungere, direi che dal mio modesto punto di vista non è un problema canino, ma è un problema umano. I cani sono migliaia di anni che si stanno evolvendo, vivono così in simbiosi con l'uomo, mentre il bipede umano dovrebbe studiare un po' di più. Cioè, il fatto di acquistare un cane non significa che uno diventa immediatamente proprietario di un cane. E infatti, Roberto, tu che cosa vuoi aggiungere? No, io quello che anche è stato detto è sacrosanto, però, e lo sottoscrivo, però devo dire anche che esistono tantissime persone intolleranti in una maniera incredibile, per cui il cane viene visto solo come quello che sporca, che abbaia, che fa rumore, e scontrarsi con queste persone non è semplice, perché se io rispetto tutte le regole civili e il mio cane fa lo stesso, a volte si trova veramente delle persone dove il cane solo perché ha fatto ha disturbato il condominio. E si paga un po' la maleducazione di altri proprietari. Essere e benessere. Siamo tornati, abbiamo Piero che ci chiama da Roma. Piero, buongiorno. Buongiorno, io ho mia figlia che è dislessica. Sì. Leggermente dislessica, una personalità un po' fragile. Mm. E mi ha chiesto da parecchio tempo, mi sta chiedendo il cane. Quanti anni ha Piero, la sua bambina? No, non è una bambina, ha 20 anni. Ah, vabbè, una ragazza. E lavora anche, cioè è una vita quasi normale, insomma. E però io il mio problema è portare a passeggio il cane poi dopo, perché lei... Perché poi lei lo sa che toccherà poi anche a lei, e tutti i membri della famiglia poi sono attivati all'accudimento del cane, vero Roberto? Non scappa nessuno. Mi auguro che... Se no lo portiamo da Roberto che con sua moglie li cura. Roberto adesso ha un bambino di 7 mesi, per cui ha anche quello. Comunque non è un grosso problema, lo può risolvere questo problema. Come? Innanzitutto scegliendo un cane di sesso femminile, perché la femmina ha meno esigenze del maschio. Il maschio deve marcare il territorio, quindi deve fare parecchie uscite durante la giornata e, per poter appunto soddisfare questa sua esigenza. La femmina no. Poi le femmine comunque devono essere sterilizzate per il loro benessere e comunque anche per una nostra esigenza. E comunque un cane di piccola taglia femmina non ha grosse necessità. Il mio per esempio fa i suoi bisogni su una traversina quando non lo possiamo portare fuori, che sono queste cose che assorbono le urine, sì, fuori sul balcone senza problemi. Professor Zucca, lei che consigli darebbe a Piero? Una ragazza di 20 anni. Piero ci racconta, dislessica, ma la dislessia è un problema che può essere assolutamente superato. Tra l'altro invito Piero a sentire molte delle puntate che abbiamo dedicato proprio alla dislessia. Professor Zucca. Ma concordo assolutamente con quanto hanno detto i colleghi. Direi che la cosa importante in questo caso, forse più che negli altri, sarebbe quella di ponderare bene la scelta sia del sesso, eccetera, della taglia, eccetera, ma anche del carattere dell'animale, che sia docile, sia gestibile, eccetera. Cioè spendere più tempo nella fase iniziale di questa esperienza, anche perché, come si diceva in precedenza, è un'esperienza che porta sì giovamento, ma dura anche molto nel tempo, no? Almeno così ci si augura, cioè attorno a una decina d'anni. Ecco, c'è un una campagna che dice: se vuoi adottare un cane a Natale, sappi che dovrai passare con lui tanti altri Natale. Claudio da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie per avermi dato questa possibilità. Ci racconti? Volevo chiedere io e la mia famiglia siamo felicissimi proprietari di un Cavalier King di circa tre anni. Sì. È un cane straordinario, una personalità fantastica, ha un unico difetto, quindi volevo chiedere un consiglio ai vostri esperti. Quando usciamo insieme, tutti e tre, dà segni di ansia, di angoscia, di paura, addirittura piange, quasi come se avesse il terrore dell'abbandono. Non sono in grado di interpretare. Quando lo portate fuori insieme a voi, professor Zucca, sì. Lei che cosa penserebbe? Che sì, lui magari sì. Vuole starsene a casa tranquillo. No, sto scherzando. Sì, ma non ho capito bene, quando esce? Quando esce insieme a Claudio e alla moglie di Claudio, lui piange e dà una sensazione. Vero Claudio, ho capito bene? Esatto. Purtroppo è molto difficile dare una spiegazione, una diagnosi certa, esatta, perché come nell'uomo, così avviene negli animali, ci possono essere una serie di episodi che magari risultano insignificanti per il bipede umano, ma molto significanti per l'animale. Questi episodi, magari negativi, si fissano e dopodiché creano le stesse ansie e fobie che possiamo riconoscere nell'uomo. Quindi, per cui è difficile, lei insisterebbe... mettere il cane su un lettino e analizzare un po' qual è stata la storia di questo animale, ma non sempre si riesce a, voglio dire, identificare il fenomeno che ha causato questo. Difatti gli animali soffrono molto spesso di queste paure che nell'uomo vengono identificate come inconsce, cioè sono difficili poi da identificare le cause reali. Bisognerebbe cercare di fare un lavoro e questo, voglio dire, possono appoggiarsi. E questo si può anche andare dal veterinario, vero dottor Cervia? Chiedere... del genere consiglierei di portarlo fuori più spesso, di fargli magari vivere questa esperienza più spesso, di modo in modo che ha modo di abituarsi, naturale. Anche perché il Cavalier King è il cane felice, è un cane sempre contento, sempre gioioso. I cani si annoiano, anche i cani come noi soffrono di questo problema. Per cui portarlo fuori più spesso per me è un buon suggerimento, cercare di farlo stare più a suo agio possibile. E per chi desiderasse un cane per Natale o un gattino, insomma, noi invitiamo ad adottare gli animali. Certo, prima parlatene magari con un tecnico, con un veterinario che vi darà dei consigli. Però se dovete proprio prendere un cane Natale, non lo comprate, adottatelo, ci sono i canili pieni anche di cuccioli. Ecco, potete anche andare sul sito Amo gli Animali e il dottor Cervia si impegna a farvi una sorta di piccolo test, a mettervi in contatto con l'animale per scegliere quello più adatto a voi. Assolutamente sì. Io voglio salutare Laura Tonatto, perché noi in questa settimana abbiamo in chiusura sempre un angolo profumato per il nostro Natale. Benvenuta, bentornata. Grazie a voi, ancora una buonissima giornata a tutti. Oggi che profumo di che profumo ci parla? Oggi parliamo di note boisé, di legni, di sostanze meravigliose che sono molto molto pregiate, come il sandalo, come il vetiver, come il patchouli. Sandalo lo conosciamo, è un legno indiano molto molto prezioso, quasi introvabile, come il patchouli. Il patchouli ha raggiunto delle quotazioni veramente proibitive. E annusare queste sostanze è un po' come rifugiarsi in un bosco profondo. E il patchouli ha proprio l'odore di foglie macerate nella terra. In queste giornate fredde dove ci sono tante foglie, provate ad annusare e riscontrerete assolutamente questa tonalità meravigliosa. Grazie. Il vetiver, che ha invece questa tonalità fantastica, anche in questa macerata di foglie, ma nell'acqua, quindi ancora più umida. Grazie a Laura Tonatto, ci sentiamo domani. Professor grazie Zucca, grazie per essere stato con noi. Roberto Allegri, ricordo vi consiglio i suoi libri che sono molto interessanti. Amo gli animali col dottor Mauro Cervi. Andate grazie a visitare il sito dell'associazione. Ho sforato, mi sentirò le mie. A domani, dopo il GR delle 11.